Jojo. Pablo Young. Jojo. Who the fuck are you? Jojo. Satana o da Dio, che importa? Angelo, sirena, graffi sulla schiena, solo chi ha vissuto ricorda. Equidistanti dal cielo, un velo di mistero circonda il pensiero di chi a notte fonda, tiene gli occhi aperti e spesso non sogna. Stretto dalla morsa di un'anaconda, un'altra volta. Sono malacarne, fiore senza linfa, scrivo di una ninfa in fuga come Daphne. Corone di spine, freddo siderale, riscaldati dal fuoco d'un cuore in fiamme. Colpito al petto, 44 magnum. Stai dicendo che questo è un addio? Figlio di un dio minore, il mio tempo non scorre, muoio a modo mio. Trasparente, sky vodka liscio. Sto sul trono come a Mogadiscio. Rap sailor, cuccio rime Taylor. Unito e poli opposti in un disco. Nel mondo di Hypnos, sogno filigrane, le tracce di lip gloss. Stretto da un kraken, l'uomo del mistero Mandrake. Canzone alla sirena Tim Buckley. Prigioniero in una gabbia d'oro, mani serrate nelle diocesi, foglie d'alloro. La mia crew è protetta dall'occhio di oro. Dall'occhio di oro. Scrivo alla luce delle candele come canti clericali intonati alla santa sede. Un diavolo impicchiato alla ricerca della fede, della strada per tornare a casa come Hansel e Gretel. Gretel. Sabbia bollente come a Betlemme, città sacra, Gerusalemme. Pensieri sbocciano nella mia testa come sui rami, boccioli e gemme. In bilico tra morte d'amore, sorrisi e lacrime, silenzio e caos. Il bene contro male come Tao. Tra genialità e pazzia al confine è labile. Pablo Young.